a buie, i chiastenar stalcur, o buie di culinis, il bosc ti puarte il ver d'ogni i piui, e il chian da iuceluz d'ogni i cussins, o buie di usignui. Il cimiteri ad alt sulla culine, cui arcs daviarz e blancs, ave glai muarz. Pe fieste un suna l'arc di tignil plat, o buie di campanis. E stradis che dan siums alla planure, e gasis di aghe pure, die pai prats. Fra mie cerchi di montagnes che si cuche a tramontan, son di buie vint borgades che fevelin par furlan. Buie, buie, tu se sbiele tra culine se planure, tu as il bosche la taviele, l'acquedot culaghe pure. E il toaier di montagne cal venju in tal pais, al varis ogni magagne, cula cure di pos dis. Emigrants, tornai ta buie, come svoe di polsà, tal pais non manche nue, le bon bevi e bon mangià. Riviviamo attraverso questa descrizione dello scrittore Pierin Menis i primi passi del fornaciaio. La prima volta che andai in Germania avevo poco più di 10 anni. Non ero mai salito su di un treno e neppure avevo visto il mondo oltre Gemona e i colli morenici. Com'era grande il mondo! Tra poco si arrivas, mularie, preparai le piore, vale a dire il sacco con una camicia ed un paio di pantaloni rattoppati di ricambio. Dal finestrino vidi che nevicava fitto fitto. Di lì a poco il treno si fermava sotto una breve pensilina dove arrivava il turbinio della tormenta. Tremavo dal freddo e dalla paura. Il sole avvolto in densi veli, grande e rosso, volgeva al tramonto. A che store tomari e fas la polente? E tu culì? Disse qualcuno, ed io mi misi a piangere. Avevano ottenuto il loro scopo, i grandi, e ridevano di me con compiacenza disumana. Ricordo che anche dopo, negli anni successivi, i fornaciari provavano un gusto sadico nel tormentare i più piccoli, i mui, col ricordare loro gli affetti più santi, i volti amati e lontani. Sul piazzale esterno della stazione c'era un carro ad attenderci, un pruk, attaccato a due colossali cavalli le cui ampie schiene fumavano come caldaie in ebollizione. Mui e Pioris vennero ammucchiati su quel carro ed avviati alla fornace. Gli uomini, i fornaciari, sarebbero venuti più tardi a piedi ed intanto entravano nella birreria vicina dalle finestre appannate dal calore delle grandi stufe accese. Il lavoro, la fornace, era sita all'inizio di una valletta tra un colle basso che si allontanava a sinistra ed un fiume che divallava a destra. «Veso onzi genoi, mui! Vedet che domani a binore bisogna muovere le aine o tornare a tetà che ste siarade!» Era questo il saluto che ci veniva rivolto da un bintar, uscito da un casone vestito di stracci e con la barba lunga. «Chest culì alle luestri lodar!» L'indicazione era per noi, per i muli. Nel vasto stanzone erano tante cuccette allineate lungo le pareti. Per noi, appena dentro l'ingresso, c'era un tavolato rettangolare, alto, fermato su dei pali infissi nel pavimento di terra battuta. Sembrava uno di quei cassoni che vediamo ancora nei nostri paesi e servono a trasportare la calce spenta. Dentro era stesa una bracciata di paglia ed una coperta che doveva servire per tutti e quattro. Disposto il sacco, le piore, a guisa di guanciale, vestito com'era, salì su quella specie di letto per passare la prima notte di Germania. Prima di stendermi, feci il segno della croce. Il mio gesto era stato spiato. Ricordo che sentii sghignazzare ed altri fare dei commenti. Stavo per chiudere gli occhi, gonfi di lacrime e di sonno, quando nella penombra fioca vidi avvicinarsi a me e poi abbassarsi una figura, un fornaciaro dalla faccia dura, pelosa, forse il bintar, che mi sibilò più che pronunciare questo ammonimento. «Tio, marmote, riguarditi che i fornasirs no prein!» Da quel lontano giorno molte cose sono cambiate sulla faccia della terra. Si sono cambiate mentalità e situazioni, tenore di vita e concezioni ideologiche, sicché può sembrare inverosimile il mio racconto, ma era così. Ma i versi dei poeti nulla hanno detto, e non lo potevano, della storia di Buia, che affonda le radici della sua origine nell'età preromana e che accolse poi i colonizzatori dell'urbe sino a che nel secolo VI succedette nel suo territorio il popolo longobardo. Poi nel 792, con la donazione di Carlo Magno al patriarca Paolino, Buia entrò a far parte del ducato patriarcale, che poco dopo si estenderà a tutto il Friuli e rappresenterà per il paese un periodo di vero splendore. Sarà infine la dominazione della Serenissima a darle un clima sì di calma, ma anche di sonnolenza e di grigiore, periodo di transizione che matura i germi dei tempi nuovi. Ma i tempi nuovi, abbiamo visto, portano in Buia il fenomeno dell'emigrazione. Ed emigranti furono anche i suoi artisti, come il pittore Enrico Ursella, spentosi 2 anni fa, e il vivente scultore Troiano Troiani, ora in Argentina, il giovane Gallina, scultore anch'egli, attualmente in Svizzera, e lo scultore Enole Pezzetta. Ed emigrante a suo modo fu anche padre Amadio Calligaro, missionario in Cina, come lo è l'arcivescovo Briante, vicario apostolico di Egitto e Terra Santa, mentre Buia annovera fra i suoi figli lo storico Giandomenico Guerra, e l'unico vescovo friulano che abbia retto la sede arcivescovile di Udine, Monsignor Andrea Casasola. Proprio per questo suo destino di terra di emigranti, è toccato oggi a Buia il compito di recare il saluto del Friuli a voi tutti, friulani lontani dalla piccola patria. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, 46esima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Dino Menichini, adattamento di Ermete Pelizzari. Hanno collaborato Ottavio Valerio e il coro popolare di Urbignacco. Musiche di Garzoni e musiche popolari.